Ovviamente indignata, poi la Michela Murgia, impossibile non vedere le analogie tra la naturalezza con cui Vespa ha domandato l'estensione fisica della vallone all'occhio della telecamera alle frasi di Silvio Berlusconi e Rosy Bin. Insomma, si arriva sempre a Berlusconi. Oggi Bruno Vespa prende carta e penna e scrive sdegnato a Repubblica. Caro direttore, mettiamoci d'accordo, una donna brava e intelligente, qualunque lavoro faccia, può essere bella senza pagare pegno? Se valorizza con l'abbigliamento la propria avvenienza, le si può rivolgere un complimento garbato? È quanto ho fatto a Silvia Vallone, dicendo che aveva uno splendido décolleté. Il mio apprezzamento era così inopportuno che la stessa Vallone ha detto che non l'ha nemmeno notato. Insomma, poi sì, contro Gad Lerner, che è invidia, e poi potranno farsi un libero convincimento chi chiede informazioni su Gad Lerner, su chi tra noi due rischi di diventare davvero un vecchio bavoso. È qui l'accusa gravissima di Bruno Vespa. Allora, il vecchio bavoso è Bruno Vespa o Gad Lerner? Vi lascio con questa inquietante domanda. Votate il sondaggio. Tomizawa è morto in pista al Moto Mondiale e le gare sono continuate. Giusto così? E allora eccoci qui alle 8:22 minuti. Il protagonista dell'intervista di oggi è il ministro degli esteri, che saluto e ringrazio, Franco Frattini. Ministro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Senta, sono ore decisive per la sorte dell'iraniana Sakineh, che è condannata alla lapidazione. La comunità internazionale si sta mobilitando. Perché lei ha detto, e su che basi, che in questo momento Teheran sta ripensando alla condanna? Ma noi abbiamo fatto dei passi diplomatici anche negli ultimi giorni e recentemente, due giorni fa, l'ambasciatore d'Italia insieme al rappresentante della Presidenza europea ha incontrato proprio a Teheran dei rappresentanti delle autorità iraniane che hanno in particolare la responsabilità di valutare questi casi. E loro ci hanno detto che sulla esecuzione della lapidazione nulla è stato deciso. Io so anche, ed è giusto ricordarlo, che all'interno del sistema iraniano si è da tempo aperto un dibattito che ovviamente non va sui giornali e sulle televisioni di quel paese, sì, sulla praticabilità di un'esecuzione così orribile, così brutale qual è la lapidazione. Quindi ci sono degli elementi che fanno pensare che questa grande pressione internazionale, che questi grandi sforzi di tutti, del governo italiano, dell'Europa, di tante società civili, possono avere un'influenza positivo per far ripensare il governo di Teheran. Le chiedo, dovesse malauguratamente avvenire questa condanna, qualcuno nell'Europarlamento ha detto rompiamo le relazioni diplomatiche con Teheran, è un'ipotesi possibile? Ma noi non possiamo immaginare di fare la politica estera in questa maniera. Le relazioni diplomatiche con un paese come l'Iran sono necessarie anche per ottenere decisioni come quelle che vogliamo, ad esempio quella di graziare Sakineh, non solo non lapidarla ma non ucciderla, risparmiarle la vita. Sono decisioni che non si possono prendere sull'onda dell'emozione, lo ha detto la Santa Sede, lo hanno detto i governi occidentali e evidentemente io desidererei incontrare il mio collega, il ministro degli esteri iraniano, che ho già incontrato qualche mese fa a Kabul, sì, per rinnovare anche a lui in modo diretto questo appello. Se lui venisse a Roma io sarei ben lieto di accoglierlo per un incontro ufficiale, ma certamente appelli di tipo emozionale non servono a salvare la vita di Sakineh. Serve un impegno di tutta la comunità internazionale che continui, come si sta facendo, a richiedere con forza un gesto di clemenza. Ministro, veniamo alle questioni interne, perché sono ore anche decisive, sì, di politica interna. Lei è un, sì, uomo che all'interno del PDL, sì, ha un ruolo decisivo. Le chiedo, la sensazione che ormai non sia questione di se, ma di quando si andrà a votare. Anche lei ha questa sensazione? Noi abbiamo la sensazione, io ieri ho incontrato ad Arcore il presidente Berlusconi, evidentemente da tutti i contatti che ho avuto anche in queste ore mi sono convinto che occorre con forza verificare se quell'impegno preso pubblicamente da Fini ad essere leale al programma, alla maggioranza, al governo, verrà mantenuto al primo degli impegni concreti, non quelli soltanto annunciati, quelli che si traducono in voti parlamentari. Noi avremo delle mozioni parlamentari che non saranno novità, saranno la conferma più dettagliata del programma di governo votato dagli elettori. Il Presidente del Consiglio ha persino detto: non voglio porre sul cosiddetto processo breve una questione di principio, un prendere o lasciare, un voto di fiducia, quindi ha largamente attenuato tutti quelli che potevano essere i punti di polemica e di frizione, ma voglio dire sul federalismo, sul mezzogiorno, sulla riforma fiscale, sono chiamati a dire se tradiscono gli elettori, come io mi auguro che non accada, o se invece vogliono cambiare. In questo secondo caso è evidente che il ricorso alle urne sarebbe l'unica conseguenza possibile. Io credo che la stabilità del Paese sia un valore aggiunto, credo che il diritto di governare di questo governo sia anche un dovere di governare, quindi mi auguro che si possa andare avanti nel programma di governo. Vediamo la questione parlamentare, insomma. Le chiedo direttamente, secondo lei Fini dopo Mirabello, dopo il discorso, può rimanere Presidente della Camera? Noi non abbiamo strumenti parlamentari, giuridici, costituzionali per far trarre a Fini delle conseguenze. Queste sono decisioni che si prendono in solitudine, che si prendono con una propria valutazione. Lo dico con grande chiarezza. È evidente che se vi fosse uno strappo dei finiani, è evidente che se vi fosse uno strappo del gruppo di Fini contro il programma di governo, in quel caso certamente la Presidenza della Camera striderebbe con il ruolo di chi si è posto non solo come un'entità staccata dal partito nel cui ambito è nato politicamente in queste ultime fasi della vita politica italiana, ma addirittura si è posto la responsabilità di rompere maggioranza, governo e legislatura. In questo caso credo che la conseguenza politica sarebbe davvero l'incompatibilità con la Presidenza della Camera. Io mi auguro per il bene dell'Italia che invece si continui a governare, si continui a lavorare sulle cose concrete. Sì. Infine, lei siede anche in Parlamento, si sente di aver compiuto qualcosa di più grave di Renato Vallanzasca, perché Michele Placido dice che è così? Io sono assolutamente indignato, conosco e rispetto Placido, ma non ritengo che questo tiro al piccione sul politico, lui fa un film su un assassino, sul capo di una delle gang più brutali e più sanguinarie, e siccome gli viene rimproverato qualcosa lui dice che i politici hanno fatto di peggio. Non solo io, ma lui non si deve permettere di fare queste confusioni. Pensiamo alle vittime di Vallanzasca, a quelli che sono stati uccisi, a quelli che sono stati torturati. È veramente una risposta indegna di una persona di valore quale certamente tutti considerano Michele Placido. Come regista sicuramente sì. Grazie a Franco Frattini, grazie al Ministro per essere stato con noi, il Ministro degli Esteri. E allora noi ci fermiamo per la pubblicità e poi c'è il nostro sondaggio. È ancora davvero sono scioccanti quelle immagini che ancora girano da domenica a Misano, quando il pilota Centauro Tomizawa è morto durante una gara del moto mondiale, ma le gare sono continuate e noi vi chiediamo se sia giusto così. 24 mattino. Alle 8:36 minuti, eccoci nuovamente in diretta e dunque parliamo del nostro sondaggio che dovete votare su radio24.it nell'home page. Parliamo di quello che è successo, la tragedia che è successo domenica a Misano nel moto mondiale e che ha suscitato e continua a suscitare un dibattito ricco di polemiche. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. La morte di Shoya Tomizawa, motociclista giapponese, 19 anni, durante il Gran Premio di Moto2 a Misano, E noi vi chiediamo, è giusto non aver fermato le gare? Certo, molti già ci scrivono messaggi al 349-238-6666 dicendo certo che è giusto, perché è morto, non è morto l'impista, è morto dopo, in ospedale, non si sapeva, varie ore dopo. Guardate che questa è un'accusa, è una tesi un po' ipocrita. Ipocrita. Valentino Rossi ha detto si è capito subito, e poi guardate, leggetevi i giornali oggi, c'è il giallo sulla morte di Tomizawa, con qualcuno che dice era morto lì nel circuito, ma chiaramente hanno ritardato apposta a comunicarlo. Qualcuno polemicamente addirittura ha detto l'hanno fatto morire e resuscitare 10 volte prima di dichiarare la sua morte. Perché? Perché sennò bisognava sequestrare il circuito, fermare tutto, fermare il circo, qualcuno accusa. Ne vogliamo parlare intanto con un ex campione, anche se ex è giovanissimo, Manuel Poggiali, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quanti anni? 28? Quasi, a febbraio. Ah, accidenti, va già ritiratosi dopo aver vinto 2 volte campione del mondo, un grande campione delle due ruote. Saluto anche il poeta e scrittore intellettuale Davide Rondoni, buongiorno Rondoni. Buongiorno a voi, buongiorno. Poggiali, io partirei da lei. Ho esagerato a dire che è ipocrita dire beh è morto dopo. Oggi Oliviero Bea, anzi ieri su Repubblica, Maurizio Crosetti ha detto ormai c'è la morte, cioè, l'hanno spostato, è morto, spostatelo per favore che dovete, che dobbiamo continuare. Sto esagerando? Guardi, io di queste cose faccio fatica a parlarne, anche perché meglio di chi lo ha soccorso, meglio di chi lo ha visto lì proprio in quei momenti, non lo può dire nessuno. Sicuramente quello che posso dire io è che essendo poi stato lì, avendo visto la cosa praticamente in diretta, è stata una cosa veramente, un incidente veramente grosso che i soccorritori tra l'altro hanno fatto grosse difficoltà a soccorrerlo, perché sopraggiungevano altre tantissime moto a velocità impressionanti. Sì, bandiera gialla, però certo. Bandiera gialla, le posso garantire che rallenti stretto necessario, soprattutto in gara. In prova è un discorso diverso. Senta, gara... ma che effetto le ha fatto a lei vedere che si è continuato? È il circo che ha continuato, oppure come scrive oggi, come dice Giacomo Agostini in un'intervista, doveva essere il nostro ospite, ha messo il cellulare spento, ma forse lo aggiungiamo, dice non è cinismo, ma insomma queste cose succedono, i piloti lo sanno e che c'è questo rischio, bisogna continuare. Sono totalmente d'accordo, diciamo che quando succedono incidenti del genere, soprattutto quando rimangono piloti in pista fermi lì immobili, per la sicurezza di tutti, soprattutto anche dei soccorritori, è importantissimo esporre la bandiera rossa. Ciò non vuol dire fermare tutto totalmente, poi dopo quello che è successo dopo, le ripeto, non ne sono a piena conoscenza e non sta a me a dirlo, però in quel momento, vedendo un po' la situazione, in quel momento era doveroso secondo me esporre la bandiera rossa. Il fatto poi che sia morto anche una settimana fa un ragazzino di 13 anni, Peter Lenz, a Indianapolis, secondo lei fa delle riflessioni oppure è una coincidenza sfortunata? Voglio dire, se stiamo tristemente sulle fredde statistiche, la sicurezza è aumentata molto rispetto a diversi anni fa. Sì, sicurezza è aumentata molto, sappiamo tutti un po' quante queste cose accadevano in passato e quanti passi sono stati fatti avanti. Sicuramente ciò non vuol dire che non possiamo ancora migliorare la sicurezza e la salvaguardia dei piloti, quindi non bisogna fermarsi qui, bisogna andare avanti con la tecnologia e sviluppare nuove idee anche per la salvaguardia di tutti. Io vorrei coinvolgere Davide Rondoni, lei non so se ha visto, so che immagino come tutti abbia visto almeno in TV quello che è successo, ma al di là della dinamica ci si pone questo problema tutte le volte, non so, l'esempio più clamoroso è stato la all'Eisel, no? Quando ci furono diverse morti, decine di morti, e si giocò comunque la finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool. Ci si pone queste domande in maniera capziosa, secondo lei, oppure insomma il valore della vita in questi casi dovrebbe essere considerato prima e tutto il resto venire in modo secondario, oppure è un discorso sbagliato questo? Beh, guardi, da un certo punto di vista si potrebbe dire quasi paradossalmente che ben vengano questi grandi spettacoli sportivi che essendo anche una grande metafora della vita, perché la vita è un rischio in generale, non solo per i piloti, ci fanno riflettere invece su queste cose, appunto sul valore della vita, se vale più la vita di un singolo persona, un singolo ragazzo, che tutto lo spettacolo, il circo, il giro di soldi che ci può essere intorno alla manifestazione. Quindi appunto succedono queste cose perché questa è una domanda che attraversa la vita. Poi noi magari tendiamo a, così, a tenerla nascosta, a non pensarci su, diceva il grande poeta Rilke, che noi siamo bravissimi a tacere di noi, cioè a non prenderci sul serio. Poi arriva una cosa così inaspettata mentre sei lì che guardi uno spettacolo eccetera, e ti arriva di nuovo di fronte a questa grande domanda. Certo, il comportamento, come diceva prima anche il pilota che mi ha preceduto, almeno quello che si è visto, è stato effettivamente singolare, quasi grottesco per certi aspetti, e si prova sicuramente pena per la vita di questa ragazza, per i suoi familiari, gettata così via un po' in mezzo alla distrazione generale e altre preoccupazioni, che non si fermasse troppo, no? Che non si fermasse troppo, ecco, questo che sicuramente fa pensare. Sì, anche l'idea di dire è stato giusto almeno non festeggiare con lo champagne, no? Sapete, i piloti poi sul podio festeggiano con lo champagne, questo non è stato fatto, bandiera mezz'asta, non so, a me l'idea, ma forse non sono appassionatissimo delle due ruote, dei motori, quindi non entro bene nell'ottica, anche magari Manuel Poggiari ci potrà aiutare in più su questo, mi dà l'idea un po' di essersi lavati una mezza coscienza, no? Non uso lo champagne e quindi non festeggio perché è morto un ragazzo, ma voglio ascoltare cosa ne pensano gli ascoltatori, magari più appassionati di me, e mi aiutano a capire perché e dove sbaglio, se sbaglio. Renato da Forlì, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica, Renato. Beh, cosa ne pensa? Dovevano sospendere? Io sono appassionato di moto, però non partecipo ai Gran Premi. Cioè vabbè, dica. Ma cosa ne pensa? Dovevano continuare? È stato giusto? Allora, intanto volevo precisare una cosa. Mi dà fastidio la parola circo, perché è uno sport dove ci sono dei professionisti, delle aziende che investono, e il circo non in è... In questo caso ho usato la parola circo come dire il circo deve continuare, come sì, dire in questa situazione, sì, no? Potevo usarlo anche nel calcio, nel caso delle Iselle, sì, il circo comunque deve continuare. Io sono d'accordo col fatto che sia continuata la manifestazione, perché sono di professionisti e sono preparati a questo, sanno quello che fanno. E quindi l'unica cosa è il fatto delle premiazioni, che poteva essere evitata per rispetto verso chi era morto. Ma io esagero, dico perché? Perché? Ma allora se continuate, festeggiate con lo champagne, voglio dire. Non se... è giusto. No. Cioè, non si può... è successo qualcosa, non è che possiamo chiudere gli occhi veramente e continuare. A metà, li chiudiamo a metà. È successa una cosa, il nostro lavoro l'abbiamo fatto, adesso sto parlando dei piloti, l'abbiamo fatto, però per rispetto di chi è morto non festeggiamo, cioè la festa alla fine è una cosa... No, va bene, quindi lei dice comunque è stato giusto continuare. La ringrazio, Renato. Voglio andare alle informazioni sul traffico, poi riparto da Manuel Poggiali, cerchiamo di capire anche i piloti che cosa possono fare in quei casi. Cioè possono dire, per esempio, Valentino Rossi, invece che finita la gara dire ci voleva la bandiera rossa sospendere, poteva dire io non corro? Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? E allora le 8:46 minuti, c'è da dire che per ora prevalgono, è stata una decisione non giusta, il 64% di voi, 64% voleva evidentemente la sospensione delle gare. Voglio sentire cosa ne pensa Ivo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo fare due considerazioni, una di carattere tecnico, anche se magari non mi compete non essendo un medico, e una di carattere più morale. Ecco, premetto che io ho fatto quasi 20 anni di agonismo a velocità su pista nel motociclismo e ho smesso pochi anni fa. Quindi sono cose che ho visto anche negli anni e ho toccato da vicino, purtroppo. E quindi direi quella di carattere tecnico è che come prima cosa non andava rimosso sul posto. Come succede anche per un banale incidente stradale. E bisognava continuare, cioè stavano arrivando, continuava la gara, che facevano? No, una semplice bandiera rossa, come diceva Mario prima. Cioè, avrebbe interrotto tutto, avrebbe permesso ai soccorritori di soccorrerlo sul posto. Interrompere subito la gara. Non sarebbe cambiato nulla probabilmente, perché deve essere andata così, purtroppo era già in fin di vita, è probabile, poveretto. Però almeno non avrebbero avuto quell'alibi, diciamo così, che adesso si può destare nell'ambito proprio delle considerazioni fatte a livello proprio così di persone che magari vengono a questo tipo di sport così ai margini, che è giusto di poter dire che non è stato fatto il massimo. Va bene. Così avrebbero fatto il massimo. L'altra invece è una considerazione sì. di carattere, se vuole, umanitario, dove lì tocca sì. di noi. Cioè lì ormai questi circhi, come li ha definiti lei, forse sono proprio la dimostrazione a volte di quello che è il nostro essere un po' cinico, anche se è una bruttissima parola, ma... Ma io su questo, guarda, perché... non è che voglio dire il circo condannarlo, no, tu cure, no, nel senso no, che è un evento che muove interessi, passioni di milioni di persone nel mondo, cioè è uno sport, voglio dire, quindi è una cosa positiva, Ivo. Dico il circo in questo caso perché, insomma, mi ha dato questa impressione, ma solo in questa occasione. Manuel Poggiali, le chiedo, il pilota, Valentino Rossi, al di là, non voglio farla entrare a giudicare il comportamento degli altri, sempre poi personale, il comportamento e decisioni, ma lei come avrebbe visto un Valentino Rossi che dice io non corro, io, Valentino Rossi, con quello che vale la mia parola, se faccio un gesto del genere, è un gesto clamoroso, perché Valentino Rossi ha un seguito per la sua popolarità clamorosa. Lei lo avrebbe approvato oppure il pilota in questo caso sarebbe stata una buffonata, non lo so. Poggiali, eccoci Poggiali, non ci sente forse, è caduta la linea, la recuperiamo con Manuel Poggiali. Rondoni, sì. non voglio farle la domanda da pilota, però molti ci scrivono, scusate, la vita va avanti, se muore un collega in un'azienda si ferma l'azienda, se muore in un giornale non esce il giornale, perché allora se un uomo lavorando, perché quello è il loro lavoro, muore, non si deve continuare? Beh, allora intanto l'analogia non è del tutto corretta, perché lì sta avvenendo uno spettacolo, cioè ricordiamoci, perché va bene tutto, però è uno sport, è un momento spettacolare dove è vero che tanti lavorano dentro, ci sono professionalità in gioco, eccetera, ma il cui scopo, cioè il cui esito finale è produrre intrattenimento, è produrre divertimento. Quindi che in un'occasione del genere avvenga un fatto luttuoso è un po' diverso che avvenga, diciamo così, in un cantiere di lavoro che sta costruendo una casa. Cioè lì non si sta costruendo una casa, si sta facendo divertimento e intrattenimento, quindi è esattamente il contrario di quello che la morte porta in scena. In questo senso l'entrata in scena della morte dovrebbe romperlo, di fatto lo rompe lo spettacolo, di fatto stiamo parlando di questa gara di Milano perché è successo questo fatto, il protagonista sì. è stata la morte, non più lo spettacolo. Allora devo dire che l'analogia non conta, non tiene, da una parte. Dall'altra parte, appunto, se ragioniamo così, la vita va avanti, certo, la vita va avanti, dipende come va avanti. Dipende se la vita va avanti fregandosene della morte e di quello che la morte ci indica oppure no. Certo, la vita va avanti in tanti modi, siamo pieni di distrazioni, di modi per tirare avanti, per tirare a campare. Però questo significa sempre dimenticarci. No, come ha detto sempre Giacomo Agostini in questa intervista oggi sul giornale, se cade un aereo non si chiudono gli aeroporti, non è cinismo ma si va avanti. Però certo, ma chiaramente diverso, ma la situazione è ben diversa. Poggiali, l'abbiamo recuperata. Allora, sì, Valentino, no, ci mancherebbe. Valentino Rossi, se avesse detto io non corro, sarebbe stato un bel gesto o una spacconata? Ma innanzitutto bisogna capire che nel motomondiale Valentino Rossi forse è la figura più importante, però non è l'unico. Ci sono tantissimi piloti di ogni categoria, quindi la decisione in quelle situazioni forse sarebbe più corretta farla globalmente. È chiaro che per mettere d'accordo tutti nella frenesia del Gran Premio, si sa, lì sono situazioni un po' particolari, sai, da fuori è sempre facile parlare, però le assicuro che è veramente, sei talmente concentrato, talmente preso dall'onda della manifestazione, del lavoro, che a volte è difficile anche viene un po' preso alle strette, tante volte non fai neanche la scelta forse troppo corretta, capito? Tra le varie critiche, Poggiali, che si leggono anche oggi sui giornali è questa, per esempio: basta mettere i baby piloti, no? Ne parlo con lei che è stato un baby pilota, come tanti campioni che hanno iniziato proprio da giovanissimi, da bambini. Lei che ne pensa? Cioè è giusto, perché si riesce a convivere con la paura che è un compagno di viaggio inevitabile in questi casi fin da piccoli, oppure è sbagliato? Ricordiamo che un tredicenne è morto appunto una settimana fa in Indianapolis. Sì, ma io penso che incidenti come quello, se fosse stato anche un cinquantenne, non sarebbe cambiato niente assolutamente, la situazione sarebbe stata quella comunque. È chiaro che, come dicevo prima, secondo me devono essere fatti dei passi avanti su sicurezza, su nuove idee per proteggere un po' di più la sicurezza appunto del pilota. Ripeto, 12enne, 11enne, 50enne, in quei casi non sarebbe cambiato assolutamente niente. Vorrei sentire Angela da Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono un medico e penso che bisogna puntualizzare soprattutto due cose. La prima cosa, la sicurezza non è stata assolutamente rispettata. Lì bisognava fermare la gara perché bisognava soccorrere il ragazzo, che subito si era vista una cosa gravissima, e quindi quella era la cosa assolutamente fondamentale, fermare la gara per salvare il ragazzo. L'altra cosa importantissima, anche questa, è che secondo me se i soldi superano la vita di un ragazzo, il senso della vita di un ragazzo, la nostra società eticamente non si può più chiamare società, ma semplicemente primitività. Ecco, questo era il mio intervento. Grazie Angela. Manuel Poggiali, io vorrei concludere con lei. Lei ha fatto un'intervista un paio di giorni fa sul Corriere della Sera, nella quale ha raccontato anche che, possiamo dirlo così, so che parlare di paura per un pilota è sempre un argomento un po' tabù, giustamente, come a maggior ragione quello della morte, ma lei tra i vari motivi per cui ha smesso è proprio questa sensazione di paura che aveva, sì, andando sulle due ruote. Giusto. A quel punto cosa fa? Bisogna fermarsi, perché cosa vuol dire? Cioè, come si fa a annullare la paura? Cosa vuol dire che Valentino Rossi non ha paura quando va in moto così? Ma diciamo che probabilmente alcune cadute, alcune situazioni, come cadi, come ti fai male soprattutto, questo fa riflettere, perlomeno a me lo ha fatto. Poi non so, magari sai, dicevo prima, quando si è presi dalla frenesia, da quest'onda che ti arriva, è difficile anche fare delle scelte, scegliere la strada giusta. A volte l'incoscienza ti porta ad andare avanti. E sicuramente, sai, il motociclismo lo si sa, è uno sport pericoloso, tutti lo sappiamo, però se non ci fosse un minimo di incoscienza in questo sport probabilmente non esisterebbe neanche, quindi è giusto che continui così. Io la mia scelta l'ho fatta perché era quello che mi sentivo di fare in quel momento. Sai, quando era più forte la paura del piacere di andare in moto, a quel punto mi è stata facile la scelta. Certo. Ecco. Per altri, logicamente, quelli che tuttora stanno correndo, evidentemente ancora non è arrivato questo momento di decisione. Vi ringrazio Manuel Poggiali, grande campione delle due ruote, e Davide Rondoni, intellettuale, poeta, scrittore, per essere stati con noi. E allora in redazione Antonella Migliaccio e Peter Bescapè in regia, anche a loro grazie. La linea come sempre va a Oscar Giannino. Voi scriveteci bianco o nero e tradio24.it. A domani.